2 giugno 2024, le tende contro le guerre sono a Piazza San Cosimato in presidio per disertare la parata militare, per dire no a tutte le guerre e l'economia di guerra, per fermare il genocidio del popolo palestinese, perché vogliamo che lo Stato finanzi istruzione e sanità e non le fabbriche di morte. All'interno di questa giornata abbiamo previsto un modulo di approfondimento dal titolo Digitalizzazione della guerra e militarizzazione del digitale e presenteremo l'ebook Economia a mano armata, spese militari e industria delle armi in Europa e in Italia, un ebook realizzato da Sbilanciamoci e Greenpeace. In questo percorso ci accompagneranno e ci aiuteranno Giulio De Petra del Centro per la Riforma dello Stato, che partendo da come funziona il programma di intelligenza artificiale Lavender, che è stato impiegato dall'esercito israeliano, ci descrive l'uso delle armi letali autonome e come questi software vengano impiegati nei teatri di guerra. Nel suo intervento, invece, Dario Guarascio, docente di economia e diritto presso l'Università degli Studi La Sapienza di Roma, ci guiderà attraverso la questione del dual use delle tecnologie digitali e dell'uso dei campi di battaglia delle guerre contemporanee come test per le tecnologie. Inoltre ci parlerà della commistione tra stati, apparati militari e big tech, principalmente americane. Allora, un piccolo anticipo prima dell'incontro, due dati. Dal 2013 al 2023 in Italia le spese militari sono aumentate in percentuale del 132%. Le spese per la difesa ambientale sono diminuite del 5%. Le spese per l'istruzione sono aumentate del 3% a fronte del 132% dell'aumento delle spese militari. E così via. Questi dati li trovate in questa pubblicazione che si chiama Economia a mano armata, che è un report di Greenpeace e Sbilanciamoci, che trovate gratuitamente online e che trovate anche qui a questo banchetto con un contributo di 5 euro, ma è solo per la carta, che è veramente cibo per la mente. Ci sono una marea di dati che rendono straevidente perché investire in armi è qualcosa che fa male alle persone, perché investire in armi non produce occupazione. Giulio De Petra. C'è una rivista israeliana che si chiama Più 972. Il nome è il prefisso telefonico di Israele e Palestina, di tutta quell'area. Su questa rivista è uscita una inchiesta che parla di un programma di intelligenza artificiale, lo avete sicuramente sentito, che si chiama Lavender. Questo programma di intelligenza artificiale, che si nutre di una sterminata quantità di dati sulla Palestina, sia dati sulle persone della Palestina, sia dati sul territorio della Palestina, dati che sono stati forniti proprio da quelle grandi piattaforme digitali di cui parlava adesso Maurizio. Questo programma è utilizzato dall'esercito israeliano per individuare quali sono i militanti o presunti militanti di Hamas e per individuare il luogo dove è più conveniente buttare la bomba per sterminarli. Naturalmente questa decisione non viene presa da un militare che decide se o meno fare arrivare una bomba in quel luogo per uccidere quella persona, ma viene assunta quasi automaticamente dal sistema di governo e controllo delle armi israeliane in questo momento. Questo significa, è stato messo in evidenza, non solo la possibilità di errore, che diciamo a noi interessa poco, nel 10% dei casi potrebbe non essere, ma c'è una cosa molto più drammatica e grottesca in quest'uso dell'intelligenza artificiale. Il fatto cioè che i militanti di Hamas, i fiancheggiatori, vengono suddivisi per rango: fiancheggiatore, soldato semplice, capo di Hamas, e a questa suddivisione per rango corrisponde anche il numero, la quantità di effetti collaterali, cioè di morti di civili, di donne, di bambini, che è ammissibile per uccidere e neutralizzare, come usano dire, no? Le persone non si uccidono, vengono neutralizzate, questi presunti aderenti ad Hamas. E questo spiega che quelle che sono considerate conseguenze, effetti collaterali, sono cose assolutamente previste non solo dall'esercito israeliano, ma da questi software che vengono utilizzati a questo scopo. Questo ha messo in evidenza quanto questi sistemi di intelligenza artificiale siano usati in ambito bellico, ma è già da molto tempo che questo avviene, e avviene da quando ci sono le cosiddette armi letali autonome, quelli che sono stati chiamati killer robot. Armi letali autonome, prevalentemente si tratta di droni che vengono istruiti su qual è l'obiettivo da colpire e poi decidono loro quando, come e dove. Esistono già queste armi e vengono e sono state utilizzate già in molti teatri di guerra. Il primo che li ha consentito di collaudarle è stato il conflitto in Nagorno-Karabakh, tra azeri, dove gli azeri, col sostegno della Turchia, hanno utilizzato grandemente queste armi. Queste armi oggi sono prodotte sostanzialmente da Turchia, Israele e Iran, perché queste armi sono anche armi utilizzate, lo leggete sui giornali, nel teatro di guerra tra Ucraina e Russia. La questione che è nuova e che è sia della guerra in Ucraina sia della guerra a Gaza, è che oggi l'utilizzo di queste armi in questi teatri di guerra è parte costitutiva del processo di produzione di queste armi, perché sapete che il problema dell'intelligenza artificiale è quello di essere addestrata con dati effettivi perché possa funzionare. E quali dati effettivi migliori di un teatro effettivo di guerra? E quindi il collaudo di queste tecnologie avviene direttamente nel teatro di guerra, nelle azioni operative. Questa non è un'interpretazione, questo è scritto nei dépliants delle imprese militari israeliane di alta tecnologia, che reclamizzano i loro sistemi. Parliamo di imprese che hanno un nome e cognome, una per tutte, Axion Technology, ma ce ne sono molte altre, che dicono: questi sistemi, per esempio veicoli militari a guida autonoma, visori intelligenti, guardate, funzionano perché sono stati provati in teatri di guerra. È scritto sulle dépliants di queste imprese. C'è stata recentemente una fiera negli Stati Uniti, una fiera di tutte le tecnologie digitali utilizzate nella guerra, e lì nei pannelli che illustravano i venditori di queste tecnologie, il fatto che queste cose erano state provate in quei teatri di guerra era un elemento di qualità. E lo stesso in Ucraina. In Ucraina c'è un personaggio, si chiama Fedorov, è un informatico, è un grande esperto di tecnologie digitali. Bene, questa persona è il punto di tramite tra le grandi imprese digitali statunitensi e il settore digitale militare ucraino, che è diventato il settore economico di punta dell'Ucraina, che si propone come non più solo nazione agricola, ma come nazione, un hub tecnologico da offrire a tutti quelli che vogliono investire e sperimentare le loro tecnologie in un vero teatro di guerra. Questo implica che la vera motore propulsore, la benzina che fa andare avanti queste due guerre e le altre guerre, è effettivamente l'interesse dell'apparato militare e industriale. Il fatto che questo riguardi i settori di punta del digitale ci deve far capire, poi Dario spiegherà bene e darà dei numeri sul livello di coinvolgimento delle grandi piattaforme militari in questa guerra, ma dalla dimensione di quanto oggi l'industria del digitale dipenda dalla guerra. Guardate, c'è stato chi anche fra noi ha immaginato che le grandi piattaforme tecnologiche potessero essere degli elementi cosmopoliti di possibilità di socializzazione, di confronto. Oggi queste grandi piattaforme hanno come loro modello di business l'utilizzo militare, e questo è importante da sapere, anche perché sono piattaforme che noi usiamo tutti i giorni e quindi indirettamente contribuiamo a questa funzione. Vorrei dire, prima di dare la parola a Dario, che cosa si può fare contro questo? Bene, se ne è fatto un gran parlare, è stato approvato in Europa l'Artificial Intelligence Act, cioè la regolamentazione europea che dovrebbe vietare le conseguenze più nocive dell'uso dell'intelligenza artificiale, la sorveglianza biometrica ed altre tipologie che sono state in questo Intelligence Governance Act, in questa normativa europea approvata poche settimane fa, esplicitamente vietate. Bene, questa normativa di cui oggi la sinistra istituzionale si fa gran vanto e dice: vedete, noi siamo quelli che non solo siamo per lo sviluppo dell'innovazione digitale, questa retorica pervasiva che ormai ci ha rotto le scarpe, ma anche siamo quelli che abbiamo regolamentato, unici al mondo, perché l'Europa ha regolamentato. Bene, all'articolo 24 di questo Intelligence c'è scritto: tutto quello che è scritto in questo atto, in questa norma, non si applica al settore della guerra e della sicurezza. Quindi di che cosa state parlando? Seconda cosa, che cosa si può fare allora effettivamente? Il rispetto, la richiesta di applicare le regole, la normativa, no. C'è soltanto la possibilità di costruire momenti di lotta effettivi. C'è un movimento proposto dalla rete Pace di Carmo che ha imposto e chiesto, è stato approvato all'ONU, un atto di messa al bando dei robot killer, cioè delle armi letali. Bene, oggi bisogna chiedere la messa al bando dell'uso militare dell'intelligenza artificiale. Questo va fatto. Hanno invitato il Papa al G7 a metà giugno, e lì verrà invitato a parlare alla sessione sull'intelligenza artificiale. C'è un francescano, si chiama Benanti, che è stato, cioè, è il consigliere sia del Papa sia della Meloni su queste questioni, e che parla di etica dell'intelligenza artificiale, la chiama algoretica. Bene, se non si chiede la messa al bando dell'intelligenza artificiale in ambito di guerra, di quale etica si sta parlando? È una foglia di fico, è ipocrisia, non è una cosa seria. E allora, diciamo, che altro c'è da fare? Beh, c'è sicuramente quello che fanno chi occupa, chi ha organizzato queste cose, ma chi occupa le tende nelle università, dove il punto non è soltanto il sostegno alla liberazione di Gaza, ma è la lotta all'uso militare della scienza. Questo è il tema politico principale, e questo obiettivo si salda alla lotta che già stanno facendo in alcune multinazionali alcuni lavoratori, lavoratori di alto livello e perciò che hanno un potere effettivo. Per esempio Google, lavoratori di Google che hanno fatto sciopero e manifestazioni e lotte contro il progetto Nimbus, cioè un accordo tra Amazon, Google e Israele per l'utilizzo di questi dati in quei territori con finalità militari. La scienza è una cosa che può essere usata a fin di bene e a fini militari, quindi noi non possiamo fermarci. Bene, è vero esattamente il contrario. Questo dimostra che i sistemi predittivi, cioè i sistemi dell'intelligenza artificiale basati sull'apprendimento automatico, sui dati statistici, eccetera, eccetera, nascono in ambito militare e poi vengono usati in ambito civile e quindi incorporano tutto quello che è la sorveglianza militare in ambito civile. Dico questa cosa perché rispetto a queste cose importanti ci sono anche delle fesserie che però, siccome abitiamo a Roma, è bene che le sappiamo. C'è stato un assessore, mi pare che si chiami Patanè, che ha detto che vuole mettere le telecamere di sorveglianza sulla metropolitana per fare il riconoscimento facciale dei delinquenti. Bene, il garante della privacy gli ha detto non si può fare e lui ha subito, non lo sapeva, e subito ha detto no, mi sono sbagliato, non è vero, il mio sistema di intelligenza artificiale guarda la postura della gente, se si chinano di fretta, se... E peggio ancora è che queste cose che pensavamo fossero la scivolata di un assessore ignorante, le ha riprese il sindaco Gualtieri l'altro giorno dicendo per il giubileo il 5G servirà a fare questo. Quindi questo è un terreno di lotta anche che ci abbiamo vicino casa. Oggi è importante come giornata per tutti i motivi che sappiamo, ma anche perché stiamo presentando questo ebook che hanno curato Greenpeace, Sbilanciamoci, che si chiama Economia a mano armata 2024 ed è un'opera meritoria, direi, soprattutto per il momento che stiamo vivendo, perché ci ricorda che le guerre hanno sempre dei moventi economici. I classici, che oramai non insegniamo più nelle università, lo sapevano bene. Le guerre hanno anche la finalità di modificare gli equilibri economici, di appropriarsi di materie prime, di controllare meglio le tecnologie e soprattutto, mentre ci sono i massacri a cui noi purtroppo siamo oramai assuefatti, ci sono valori azionari e profitti di grandi imprese, anche e soprattutto italiane, che crescono in modo esponenziale e c'è un pezzo molto rilevante e crescente di spesa pubblica che invece che essere diretto a sanità, istruzione, a tutela dell'ambiente viene diretto all'acquisto, alla produzione di armi e quindi all'aumento dei profitti di queste multinazionali, creando tra l'altro relazioni di dipendenza anche a livello internazionale, e noi sappiamo bene questo che cosa significa, che rendono ancora più difficile poi agire politicamente e mettere in discussione le traiettorie all'interno delle quali siamo tutti invischiati. Allora, di che cosa ci occupiamo nell'ebook e di che cosa vi parlo rapidamente? Sono un po' di anni che studiamo il fenomeno delle grandi piattaforme digitali, delle forme di concentrazione di potere economico e tecnologico. Tutti conosciamo, anche perché a volte, come dire, usiamo in modo disinvolto strumenti digitali di grandi multinazionali, Amazon, Google, Facebook, in Cina ce ne sono, come dire, simili con altri nomi, e vari meccanismi garantiscono a queste imprese un potere che è sempre più forte e sempre più difficile da scalfire. Un elemento che è relativamente trascurato e che è emerso già dalle cose di cui Giulio ci ha parlato è il fatto che questo potere è fondamentalmente legato dalla mutua dipendenza, dall'interdipendenza che questi grandi monopoli, oligopoli digitali hanno con i governi e soprattutto con i loro apparati militari. Allora, ci sono quattro elementi fondamentali che noi possiamo identificare e che in qualche modo sostanziano questo rapporto di dipendenza. In primo luogo, come anche veniva sottolineato prima, senza spesa pubblica e progetti di ricerca e sviluppo militare, le tecnologie e le conoscenze su cui queste piattaforme si basano non esisterebbero. Quindi abbiamo un legame originario che nel caso di internet e delle piattaforme militari americane ha 40 anni se non 50 anni di storia, che le rende legate come un cordone, come con un cordone ombelicale, alle agenzie militari. Allo stesso tempo queste imprese sono gli strumenti fondamentali, avendo il potere che hanno nei mercati globali, per sviluppare innovazioni, tecnologie che sono sviluppate nel dominio civile ma che hanno per l'appunto un uso duale. Quindi sono degli strumenti che, dominando i mercati civili, garantiscono il controllo della frontiera tecnologica, ma che mantengono un vincolo fondamentale con l'apparato militare. E oggi che l'intelligenza artificiale diventa uno strumento fondamentale per vincere le guerre e per agire sui campi di battaglia, questo legame, questa integrazione fortissima si manifesta in modo chiaro. Un secondo elemento di dipendenza: cavi sottomarini, cloud, data center, le competenze necessarie a far funzionare queste tecnologie, i brevetti, questa roba è fondamentalmente concentrata in una manciata di imprese monopolistiche che sono prettamente statunitensi e cinesi. Quindi la relazione di dipendenza tra lo Stato e queste aziende è evidentemente molto chiara. Allo stesso tempo, come Giulio sottolineava, lo sviluppo delle innovazioni, la loro efficacia richiede testing, richiede la necessità di raffinare le tecnologie, soprattutto quando sono molto sofisticate. E purtroppo avere un campo di battaglia dove andare a misurare l'effettiva precisione di tecnologie di intelligenza artificiale è il modo migliore per diventare dominanti all'interno di quella traiettoria tecnologica. Quindi la partecipazione alla guerra come strumento essenziale per le strategie di sviluppo tecnologico dell'impresa, e i progetti di ricerca e sviluppo che il governo, le agenzie di difesa americane non soltanto finanziano, come strumento fondamentale per alimentare ulteriormente la capacità tecnologica delle imprese. E poi c'è una dimensione sistemica: se noi sommiamo la capitalizzazione di borsa delle prime quattro big tech americane, abbiamo oramai un valore che è superiore a quello del PIL dell'Unione Europea. E allo stesso tempo ci dobbiamo ricordare che, per esempio, un'impresa come Amazon, ma anche come Cisco, forniscono strumenti, il cloud è quello più semplice da immaginare, e sono essenziali per la vita di tutte le altre imprese. Quindi, un po' come il sistema finanziario, c'è un elemento di rilevanza sistemica che rende queste imprese oramai indistinguibili dall'apparato pubblico, che ne ha comunque una fortissima necessità. E poi c'è la dimensione internazionale. Il fatto che le infrastrutture, i servizi di imprese come Google, ma non soltanto, siano alla base dei sistemi, dei servizi pubblici della gran parte dei paesi, pensiamo in Europa, ma anche in molti paesi del sud del mondo, rende queste imprese di fatto gli occhi e le orecchie del governo con cui, come dire, integrano la loro strategia. E questo è un elemento che è venuto fuori anche nelle cause internazionali, per esempio intentate dalla Germania nei confronti di alcune imprese tecnologiche statunitensi, ma questo ci dà una misura per l'appunto della relazione. E veniva evocato il tema della sorveglianza da Giulio. Il modello di business, il modo di funzionare, il modello di come dire, consolidamento del potere di mercato di queste imprese, lo sappiamo, ce ne preoccupiamo a volte non abbastanza, si basa sull'appropriazione dei dati. Quanto più questi dati sono intimi, sono personali, tanto più hanno valore. Da questo punto di vista, la relazione, l'integrazione con lo Stato, con il governo, il supporto del governo nel facilitare l'accesso ai dati, anche quando ci sono dei governi un po' riottosi che vorrebbero mettere delle regolamentazioni un po' più stringenti, è un elemento vitale e fondamentale per queste imprese. Quindi per questo dobbiamo ragionare sull'elemento della mutua dipendenza e dobbiamo riflettere sul potere privato e quello pubblico, qualunque cosa questa distinzione significhi, per come dire, tenendo conto di questo elemento di consustanzialità che in effetti c'è. E per concludere, nel capitolo e nei lavori di ricerca che abbiamo fatto su questo negli ultimi anni, c'è una parte di analisi empirica, quindi di analisi dati, dove cerchiamo, con riferimento al caso statunitense, di fornire dei numeri che in qualche modo supportino queste argomentazioni. E quello che mostriamo con dati dati americani che sono liberamente accessibili è il fatto che dal 2006-2007 c'è stato un incremento esponenziale dei contratti pubblici a favore delle grandi piattaforme, e un 90% di questi contratti è riconducibile al Ministero della Difesa, alla CIA e alla National Security Agency. Ma quello che conta non è tanto il valore monetario di questi contratti, che se rapportato ai ricavi complessivi di queste imprese, che sono talmente grandi, sembrerebbe qualcosa che da un punto di vista economico è meno rilevante rispetto a quello che gli studiosi del capitale monopolistico osservavano per i grandi monopoli di inizio Novecento, ma l'importante è l'elemento qualitativo, cioè che tipo di servizi vengono delegati a queste imprese da parte del governo. Sono tutti servizi che hanno a che fare con l'accesso ai dati, con la gestione del cloud, ma di cloud, che sono quelli che riguardano le attività di difesa, di sicurezza, di giustizia. Quindi un ruolo critico e un ruolo di sviluppo di competenze e tecnologie critiche e di frontiera, che riguardano aspetti che alimentano questa mutua dipendenza. Gli ultimi due elementi. Un altro aspetto non nuovo, cioè lo conosciamo conoscendo il complesso militare industriale studiato da molti anni, quello delle porte girevoli. Se andiamo a guardare i consigli di amministrazione delle principali big tech, quello che notiamo è che tutta una serie di dirigenti della CIA o generali in pensione transitano all'interno dei consigli di amministrazione di Google, di Amazon, di Facebook, eccetera, e viceversa. L'ex amministratore delegato di Google era il presidente del comitato all'interno del Ministero della Difesa americano per le linee strategiche per l'intelligenza artificiale, e ci sono nel lavoro che potete leggere nell'ebook tutta una serie di altri episodi documentati da questo punto di vista. E l'ultimo elemento è quello della partecipazione attiva sul terreno di guerra. Amazon Web Service, dal giorno in cui la guerra in Ucraina è cominciata, è intervenuta per far transitare tutti i dati della pubblica amministrazione del sistema bancario ucraino sui server e sul cloud di Amazon Web Service. Microsoft, anche in una logica di concorrenza, ha fornito una quantità di risorse e di tecnologie comparabile. Sappiamo che Starlink fornisce il sistema di satelliti privati che garantisce all'esercito la connessione internet. Quindi tutto questo è effettivamente un elemento di discontinuità, perché da un lato abbiamo dei soggetti oligopolistici che controllano i mercati nel modo pervasivo che sappiamo, con un elemento di sorveglianza e di partecipazione più o meno consapevole nostra, che è di nuovo qualcosa su cui dovremmo sempre avere la mente puntata, e dall'altro però c'è una relazione diretta, anzi un elemento strategico fondamentale nel partecipare, nel perpetrare morte e distruzione all'interno di questi conflitti. Quindi direi che abbiamo parlato abbastanza, grazie ancora. Grazie Dario. Prima parlavamo e tu ci accennavi alla questione della ricerca nelle università, e quindi il rapporto tra, non solo tra la ricerca nelle università e gli apparati militari, ma tra la ricerca e la società. E quindi ecco, se ci vuoi dire due cose su questo. No, la cosa importante è che appunto è ovvia l'importanza di un'iniziativa come questa in una giornata come quella di oggi e con quello che stiamo vivendo. Allo stesso tempo, appunto, sappiamo che per chi come me viene dall'università è qualcosa di assolutamente inconsueto essere in un luogo come questo, ma purtroppo oramai è assolutamente inconsueto fare ricerca scientifica e insegnare avendo le contraddizioni sociali, la volontà di aggredirle, di accrescere consapevolezza rispetto a queste come obiettivo fondamentale. Cioè le università non sono solo sottofinanziate come tutto il resto dello Stato sociale, ma sono anche luoghi dove è in atto un processo oramai decennale di normalizzazione, fatto di trasformazione degli utenti, degli studenti in utenti, in consumatori, che si devono sbrigare a laurearsi per entrare in un fantomatico mercato del lavoro, dove la clava del merito è usata per perpetuare disuguaglianze, dove i ricercatori sono subordinati a come dire, meccanismi deleteri di concorrenza sulle pubblicazioni scientifiche all'anno, sugli indicatori bibliometrici, tutti elementi che sono agli antipodi con l'idea di un luogo dove va costruito pensiero critico e l'idea di trasformare tutto ciò che è poco umano, diciamo così, nella società che ci circonda. E quindi l'idea di un ebook come questo e anche di reti di studenti in primo luogo, ma anche di ricercatori, di docenti che tentino di fare rete, ma soprattutto di fare il loro mestiere cercando di darsi questo tipo di obiettivi, è qualcosa di molto importante, ma in un momento come questo, con quello che accade intorno a noi, direi che è irrinunciabile, perché per l'appunto la china su cui siamo, oltre a produrre situazioni odiose come quelle di repressione, a cui però oramai siamo ai noi abbastanza abituati, a suoi fatti, come dire, si profilano all'orizzonte scenari ben più inquietanti. E quindi la ricerca è comunque vita quando è fatta in modo vitale, se è funzionale a la pubblicazione che fa fare carriera e lì finisce l'attività, come dire, è abbastanza mortifera e poco utile. Grazie. E dove i finanziamenti all'università e negli enti di ricerca anche vengono dalle aziende, capito? Quindi se il finanziamento ormai viene quasi tutto dalle aziende, è chiaro che poi la ricerca orientata nel... No, questa è una cosa fondamentale, soprattutto è fondamentale per quanto riguarda il rapporto tra Big Tech e università. L'Italia, come dire, è un fanalino di coda, diciamo così, sul piano delle gerarchie tecnologiche, ma ci sono degli studi di dei colleghi molto in gamba, pubblicati qualche anno fa, che mostrano come le Big Tech di fatto finanziano, controllano e indirizzano la gran parte della ricerca scientifica in ambito informatico, fisico e di intelligenza artificiale, soprattutto negli Stati Uniti, ma anche nelle università europee più rilevanti da questo punto di vista. Quindi questo è sicuramente un tema, ma è un tema anche nel PNRR, cioè non si fa altro che parlare della necessità di rendere quanto più possibile servente la ricerca alle esigenze dell'industria e dell'impresa privata. Quindi questo è sicuramente un dato rilevante, e lo è ancora di più rispetto al tema che stavamo discutendo.